Stasera a questo appuntamento di questo ciclo Il Mani sulla Città manca Camilla, che ha avuto una Camilla di Circolo Gramma, che ha avuto un contrattempo, non so, impegni lavorativi, quindi non potrà essere con noi, quindi vi beccate solo la mia brevissima introduzione. L'incontro di stasera ha quindi come tema centrale il lavoro nelle città della rendita, che direi è un titolo molto azzeccato. E fondamentalmente anche in tutti gli altri incontri, più o meno sotto traccia, il tema del lavoro è sempre stato presente, insomma. Abbiamo parlato, mi viene in mente l'incontro sulla foodification, in cui, insomma, come diceva Marta in una specie di intervista anteprima di qualche giorno fa, chiaramente è il lavoro sottopagato, il tipo di offerta lavorativa in una città che si comincia a vocare principalmente ad un turismo di massa e a una conversione, diciamo, dell'offerta commerciale, soprattutto nel centro storico, declinata in termini di ristorazione di bassa qualità, mordi e fuggi, è un tipo di lavoro che spesso, insomma, finisce per essere sottopagato, comunque caratterizzato da poca professionalità, una richiesta di bassa professionalità e pochi anche percorsi di crescita. Mi viene in mente anche gli spunti interessanti che sono usciti nell'ultimo incontro al Parco della Zucca, riguardanti l'urbanizzazione, quando Lucia nella sua introduzione ha parlato di come anche le classi lavoratrici, il tessuto sociale e il tessuto delle classi lavoratrici delle città si sta trasformando parallelamente alla trasformazione urbanistica, quindi si parla di classi operaie che vengono gradualmente allontanate dai centri storici che sono comunque centri delle città, che sono principalmente attrattivi per nuove classi lavoratrici, quali nomadi digitali o giù di lì, e quindi, insomma, è ovvio che quello che riguarda il mondo del lavoro è un qualcosa che si trasforma e viene inglobato da queste trasformazioni. Io direi che posso già passare la parola ad Alessandro Salvatore, e niente, buon ascolto, grazie agli ospiti per essere qua con noi, e basta, finito. Buonasera a tutti e a tutti. Allora, sì, vabbè, non vi abbiamo presentati, ma se siete qua avete visto come dire, anche l'evento, quindi Gianluca De Angelis, ricercatore dell'IRES CGL, Marta Fana, insomma, anche lei non ha molto bisogno di presentazioni, com'è ricercatrice, com'era? Non ti voglio, esatto, era così. Io cominciamo questo incontro che, come dire, anche da, come dire, i due relatori ha ovviamente un taglio su Bologna, ma non solo, perché Bologna è una delle città che sta subendo questo tipo di trasformazioni, e quindi io comincerei da Gianluca. L'anno scorso, se non sbaglio, sono 2 anni fa, l'anno scorso, esatto, avete fatto un'inchiesta che già nel titolo evocava la rendita, quindi io per prima cosa ti chiederei di presentarla un po' e di raccontare gli elementi che sono venuti fuori. Ne anticipo già uno: il fatto che nella nostra città, se fino a qualche anno fa percepire uno stipendio di 1500 euro era uno stipendio mediamente buono e ti consentiva di come dire, fare una vita dignitosa in città, questo elemento da solo oggi non basta più, e anzi, con uno stipendio di 1500 euro, per tradurla, semplificarla in termini giornalistici, a Bologna si è poveri. Quindi ti chiedo di raccontarci un po' le principali risultanze della vostra ricerca. Grazie. Grazie a tutti e a tutti, intanto sia per l'invito che per la partecipazione. Non ti ringrazio invece per la domanda, perché ovviamente senza le slide dietro faccio una gran fatica, no, a fare sintesi. Parto quindi dall'esigenza, che era quella dell'inchiesta, perché noi ogni anno, dunque, io lavoro all'IRES, che è appunto un istituto di ricerca sindacale, appunto a fronte della CGIL, ogni anno noi facciamo gli osservatori statistici su economia e lavoro, che è un libricino, uno strumento che serve ai sindacalisti e alle sindacaliste per capire gli indicatori economici e del lavoro, perché effettivamente sono questioni appunto, no, che anche complicate, cioè tu ti trovi davanti una controparte che ti dice diminuisce la produttività, cosa significa, e quindi diamo questo tipo di informazioni per una volta, se tu guardavi il tasso di occupazione, più o meno capivi come andava una certa economia, una certa società, perché se lavoravi, grosso modo, stavi abbastanza bene. Questo era il... A un certo punto questa roba non funziona più. Lo vediamo, ieri mi pare sono usciti i dati Istat e la Meloni, no, continuava a dire stiamo facendo un ottimo lavoro, vedete i dati, e tutta l'altra parte che dice però dietro quei dati, ecco, noi proviamo sempre a fare quel dietro quei dati cosa c'è. Siamo arrivati al punto in cui la Camera del Lavoro di Bologna 2 anni fa mi fa, Gianluca, cioè riusciamo ad andare un po' più nel dettaglio della diseguaglianza, perché mettiamo insieme più informazioni, cioè ok, chi lavora ce l'ha la casa, non ce l'ha la casa, accede ai servizi sanitari, riusciamo ad avere questi dati? Ho detto guarda, no, è impossibile, sembra, cioè, paradossale, siamo in un contesto in cui siamo costantemente monitorati e tracciati, poi di fatto se vuoi fare ricerca i dati non sono mai disponibili a quel livello di dettaglio, quindi ho detto guarda, o la facciamo noi oppure non ci si riesce, e da lì è nata l'idea di fare un'inchiesta sociale sulla città metropolitana di Bologna. Abbiamo raccolto più di 9.000 questionari, anzi 9.000 accessi al sito, poi una parte era cartacea per i pensionati e le pensionate, una parte era digitalizzata, abbiamo inserito i dati, anzi c'è Enrico che ringrazio per l'aiuto che ci ha dato nel suo periodo all'IRES, insomma abbiamo fatto tutto quanto questo lavoro per arrivare ad avere 6.100 questionari utilizzabili. Poi che ci abbiamo fatto con questi questionari? Abbiamo detto ok, ora vanno divisi in gruppi per capire chi è più ricco e chi è più povero. Allora abbiamo preso 5 variabili, 5 condizioni. Quella di salute, perché sappiamo che la salute è un dato, cioè nel senso i più poveri stanno mediamente peggio, si curano meno, hanno accesso al cibo peggiore, non vanno in palestra e così via. Il reddito, chiaramente. Il titolo di studio, pure qui sappiamo che di solito è una proxy, diciamo, del livello di benessere della famiglia. E la rendita. Abbiamo già chiesto alle persone se hanno degli elementi a rendita, quindi poteva essere la casa, il pezzo di una casa, titoli, altre cose. E poi abbiamo anche chiesto quanto questo incideva sul totale del reddito familiare, chiaramente poi diventava anche un po' complicato poter rispondere a quella domanda, ma noi in realtà interessava più che altro suddividere le persone. E quindi abbiamo costruito questi 3 strati, chiamati così, non sapevo come altro chiamarli, volevo chiamarli classi, però in realtà non potevo, perché non si poteva, perché il concetto di classe è molto più sofisticato di così, e quindi con pedalità non riusciamo a farlo. Quindi abbiamo costruito questi 3, abbiamo individuato questi 3 strati, basso, medio e alto, che non sono soltanto 3 strati differenziati per quantità della ricchezza, ma anche per qualità della ricchezza. Perché che succede? Che mentre lo strato basso è veramente quello più, tra virgolette, indigente, ora spiego anche le virgolette, quello medio è quello più o meno che appunto lavora con contratti decenti, in contesti decenti, e quello invece alto è quello che effettivamente ha al centro della sua condizione il tema della proprietà messa a rendita. Quindi non è detto che siano per forza persone più ricche in termini di reddito, del reddito, cioè dello strato medio, sono soltanto che hanno questo tema della proprietà che qualifica il loro livello di benessere. E poi andiamo a vedere cosa succede in questi strati, perché il tema qual è? Noi non potevamo fare un'inchiesta che ci dicesse quanta gente a Bologna vive nello strato basso, nello medio. Noi ci interessa capire che cosa succede a chi vive nello strato basso, a chi vive nello strato medio, a chi vive nello strato alto, perché questo ci permetteva, poi dopo ci permette di ragionare anche in termini di ipotesi, cioè diciamo, se è statisticamente sostenibile affermare che chi vive nello strato basso più degli altri rinuncia alle prestazioni mediche perché ci sono liste d'attesa troppo alte e il privato costa troppo, beh, pensa quanto sarebbe più alto quel 56% se andassimo a intervistare anche, no, chi ha anche meno di quei soldi, no, che abbiamo, cioè insomma di quelle famiglie, di quel livello di benessere. Quindi è cosa succede a chi vive, quali condizioni vanno insieme, cosa succede a chi vive una certa condizione. Il risultato è stato abbastanza sorprendente. Sorprendente perché se la CGIL dice faccio l'inchiesta, bene o male, rispondono quelli della CGIL, nel senso rispondono praticamente le persone che in qualche modo sono attente, no, al, a quello che il sindacato può richiedere. Poi per carità siamo andati in giro, abbiamo fatto i banchetti ai mercati, abbiamo fatto di tutto, però comunque poi alla fine... Quindi abbiamo un campione che tutto sommato è omogeneo, cioè lì dentro non ci sta Jeff Bezos, non ci sta l'indigente vero, è un campione che... Eppure, avendo un campione così tutto sommato omogeneo, abbiamo visto che ci sono delle differenze importantissime che hanno a che fare con, l'ho appena detto, il tema della, della rinuncia alle spese di salute, al 56% nello strato basso. Abbiamo visto, ad esempio, mentre invece il 40%, lo so pure scritto, non fa figuraccia, però... mentre invece è il 48, diciamo, nella media complessiva. Abbiamo visto ad esempio la difficoltà ad affrontare spese impreviste di 850 euro, che è il dato Istat considerato sotto il quale appunto sei praticamente povero. È il 14% complessivo, strato basso 28%. Ma chi ci sta nello strato basso poi alla fine? Ci stanno lavoratori e lavoratrici, ci stanno tanti pensionati e pensionate e ci stanno gli studenti. Ci stanno però quei lavoratori e quelle lavoratrici che stanno in quei settori che abbiamo visto negli ultimi anni crescere più degli altri. Comunque mi ricollego pure un attimo a quello. Ah, no, un altro tema importante. Abbiamo chiesto se stanno, ad esempio, le persone cercando una nuova casa e perché e quali difficoltà incontrano. Allora abbiamo rilevato che nello strato basso è molto più alta la percentuale di persone che cercano una nuova casa. La cerca con difficoltà, ma soprattutto abbiamo visto che molte più persone degli altri strati sono disposte ad andarsene se non riescono in qualche modo, o sono costrette ad andarsene dalla città metropolitana se non riescono a, diciamo, a risolvere la questione. E, io un po' quando elaboravo i dati guardavo i proprietari e le proprietarie che dicevano no, appunto, vabbè, sì, cerco una nuova casa, però non la trovo, pazienza, rinuncio al progetto abitativo. E lo pensavo, cioè, era un po' un pregiudizio mio, no? Perché dicevo, vabbè, c'è casa, puoi fartene una un po' più bella. Poi invece, effettivamente, parlando pure con i pensionati e le pensionate, mi dicevano, guarda che, sai, con l'età cambiano i bisogni, magari non c'ho l'ascensore nella casa in cui sono e ho bisogno di un'altra sistemazione, se non la trovo anche lì è disagio. Quindi dopo ho dovuto, insomma, imparare, ecco, a non criminalizzare per forza anche quel pezzo di proprietà che abbiamo intercettato. E quindi c'è il rischio espulsione appunto che riguarda quel pezzo di popolazione che abbiamo inserito nello strato basso. Chi c'è nello strato basso? Dicevo, ci sono più spesso femmine sole, non binari erano troppo poco, cioè chi ha dichiarato di essere non binario era troppo poco, cioè nel senso per riuscire a fare un'affermazione su quello, però quella componente pure era maggioritaria in quello strato lì, dei più giovani, appunto chi è in disoccupazione, però ci stava il 48% di persone che lavorano. E questo è un dato, cioè il fatto che appunto se il tema era, la ragione dell'inchiesta era quanto conta il lavoro oggi nella costruzione, nella ricomposizione sociale, conta poco, non basta lavorare, e da qui poi il titolo che uscì sulla stampa era se guadagni 1500 euro a Bologna sei povero. Diciamo, io un po', cioè cerco sempre un po' di smorzare, ok, non è che sei povero, ok, però effettivamente iniziamo a vedere che ti collochi, che il tuo livello, diciamo, di vita ti impone di rinunciare a cose che noi consideriamo essenziali e che fino a un po' di tempo fa, se lavoravi, era impensabile pensare, insomma, di doverci rinunciare, come il tema delle spese della il tema delle spese per la salute. Non erano classi sociali, però abbiamo pure visto che si muovevano come classi sociali, sulla scuola, ad esempio. Nello strato basso, quando tu dicevi mandi i figli a scuola, sì, che tipo di scuola, e come l'hai scelta, scuola per me era molto interessante, l'ho scelta perché è comoda. Ma la comodità è una cosa trasversale, penso, cioè, penso a tutte le classi sociali, a tutte le epoche. Però quel dato è rilevante perché pure se è prioritario anche negli altri strati, in quello più elevato diminuisce rispetto allo strato più basso. La scuola diventa cioè quel, un pezzo che non serve più ad emancipare, no, da una condizione originaria, ma è invece un qualcosa che consolida la, la diseguaglianza. Ti scegli la scuola per andare all'università se sei più ricco e se dai valore a quella roba lì, ti scegli la scuola con uno sbocco professionale se, se non dai valore, diciamo, non puoi permetterti un certo tipo di percorso di studi. Uno potrebbe dire, vabbè, si sapeva, però quando poi cominci a vederlo, quei numeri iscritti su una città come Bologna ha un suo, ha una sua rilevanza. Io posso continuare? Sì, però no, mi ricollego a quello che state dicendo voi sul tema della foodification, eccetera, perché poi appunto se l'inchiesta serve a qualcosa, serve a contestualizzare i dati che poi escono costantemente, no? E che appunto annualmente analizziamo. No, dico un'altra cosa. Ieri stavo leggendo, perché volevo prepararmi un po' per l'incontro di oggi, l'istruttoria che fu fatta al Comune nel 2019 sul disagio abitativo. È una roba che dalla quale sembrano passati, no, anni. E ho tutti i verbali, cioè sono 150 pagine di verbali di tutti gli interventi fatti in quell'occasione. E due mi avevano colpito. Uno era quello di Lepore, che all'epoca era assessore al turismo, e che a conclusione dell'iniziativa diceva non c'è un'emergenza abitativa a Bologna. Bologna è una città che deve investire sul turismo, perché il turismo è uno degli elementi che ci permetterà di affrontare anche la situazione delle... servono soldi, serve economia, ok? Diceva proprio serve economia. Quindi il turismo rende anche quel tipo di possibilità di superare i rischi, no, di una eventuale emergenza. E poi c'era quello dei piccoli proprietari, un altro intervento, si chiamava tra l'altro Local Pal, non so manco se esiste ancora questa associazione, piccoli albergatori comunque, Local Pal, cioè, non sono andato troppo avanti, che però insomma dicevano proprio noi affittiamo su Airbnb, noi affittiamo, cioè nel senso affitti brevi, perché non possiamo permetterci il rischio, non possiamo accollarci sostanzialmente la precarietà, no, di chi fa fatica a lavorare. Io sono pure d'accordo, no, sono d'accordo, nel senso che in casa c'è, cioè, la tolgo, nel senso che la responsabilità deve essere collettiva, no? Non la devi assumere te, ce la assumiamo noi. Vabbè, comunque, ma al di là della battuta, e mi chiedevo ieri, ma che è successo dal 2019 a oggi, quando si diceva non c'è l'emergenza, e oggi invece che ci troviamo alla situazione di Michelino? Qualcosa è successo, è stato il Covid, ad esempio, dopo il 2019. E poi c'è stato un crollo di tutto quanto quell'economia turistica, no? Che sembrava a un certo punto dover decollare, che proprio dal 2017-18 Bologna l'ha trasformata, l'ha ribaltata, e poi abbiamo avuto 2-3 anni, 21-22 soprattutto, in cui l'occupazione a Bologna Comune, città metropolitana, è cresciuta tantissimo, tutta nella componente femminile. E quando presentavamo l'osservatorio, in questo caso, della città metropolitana, in realtà ci interrogavamo, perché dicevamo, ok, ma cresce l'occupazione femminile, però crescono le dimissioni, cresce la gente che cerca un altro lavoro mentre sta lavorando, cresce in settori come appunto alloggio e ristorazione, cioè cresce in settori dove facciamo fatica a capire che tipo di lavoro, no, effettivamente quello che si sta creando è, cioè ci piace il nostro lavoro o no? È quello che ci serve, perché poi il lavoro, voglio dire, sì, serve per campare, però deve pure, no, appunto ricomporre, creare redistribuzione, se no. E 2024 questa storia finisce. Il tasso di occupazione addirittura diminuisce. Ma Marta, l'economista, lo sa, per muovere un tasso serve un sacco di roba, cioè nel senso non è che chiude un'azienda e si muove il tasso di occupazione, chiude l'azienda è buono, cioè nel senso il tasso di occupazione è difficile che si muova, no, per variazioni minime. A Bologna nel 24 il tasso di occupazione è sceso di 3 punti per quanto riguarda la componente femminile, abbiamo perso 6.000 occupate, mentre invece gli occupati sono rimasti stabili. Abbiamo perso tutta l'occupazione che si era creata proprio in quei settori lì. E le disoccupate sono aumentate del 70%, nel senso, cioè numeri comunque sia che portano anche fuori scala, se lo facesse dei grafici non riuscirebbe neanche a proiettarli come si deve. L'inattività è cresciuta del 7%, sempre nella componente femminile. Cioè, in qualche modo, la risposta a quelle domande era, ma che tipo di lavoro è? E questo è il lavoro. Perché il lavoro... se andiamo a guardare i redditi, i salari, se complessivamente media città metropolitana sono 27.000 euro al mese, nella manifattura sono 37.000, alloggio e ristorazione sono 12.000. Sanità e assistenza sociale, sempre nel privato, quindi gli appalti, le cooperative, siamo sui 16.000, siamo a 17.000 nella somministrazione degli appalti alle imprese. Quindi abbiamo proprio un pezzo di occupazione che di fatto non crea quelle cose che ci diciamo, cioè non è una bella occupazione, un'occupazione che effettivamente fa qualcosa, ci permette insomma di ragionare in termini di un futuro anche di emancipazione, insomma di un futuro in cui vivi dignitosamente, ecco. E quel pezzo lì che è andato, no, a farsi fregare, diciamo, perché chiaramente il tema degli appalti, se la crisi della manifattura comincia adesso a farsi sentire, lo sentono prima lì, sono i primi che sono fatti fuori, che sono fatte fuori, perché poi è soprattutto la componente femminile. E oggi vediamo che quella crisi sta avanzando, vediamo la cassa integrazione che aumenta, più 20% soltanto in città metropolitana di ore autorizzate di CICS. Insomma, c'è tutto un sistema che si sta mostrando per la crisi, che sta mostrando la contraddizione di chi ha pensato di scommettere su un pezzo di economia che non ci interessa. Dico non ci interessa perché non è quel pezzo che... Cioè a me non piacciono le imprese, per forza. A me piacciono se creano quelle cose che ci dicevamo prima, cioè creano benessere diffuso, creano quel tipo di lavoro che si è creato seguendo la coda della turistificazione, delle esternalizzazioni, è un lavoro che lascia appunto a piedi la gente e che crea diseguaglianza. No, grazie. Molto interessante, e tra l'altro sarebbe anche bello se questi numeri poi magari ce li passassi a me, Alessandro, che magari li utilizziamo. No, dice in che tipo di lavoro è, ci piace questo lavoro e da quando è iniziata questa spirale. Ma credo che Marta nel suo libro Non è lavoro, è sfruttamento, già in tempi pre-Covid, quando è uscito? 2017 addirittura, cioè aveva comunque fondamentalmente già tracciato, non dico l'inizio, però insomma è la strada di un percorso che, ritornando nell'attualità veramente più attuale, scusate la ripetizione, tipo lo sgombro di via Michelino e tutta la crisi abitativa, ci fa appunto comprendere come la precarizzazione del lavoro sia stato il punto di partenza per arrivare poi alla città della rendita, in cui appunto sia i salari che diventano più bassi addirittura o comunque non crescono, sia gli affitti che vanno alle stelle, sono parte di uno stesso modello in cui, come diceva benissimo Marta nel suo libro, la ricchezza non si crea più sul lavoro, come succedeva prima, ma si accumula attraverso la rendita. E in questo modello, chiaramente, lo sfruttamento gioca un ruolo fondamentale. La turistificazione, per esempio, appunto si regge sullo sfruttamento. Pensiamo che le città come Bologna o comunque anche Milano, per esempio con l'Expo, Bologna con Fico, sono partite attraverso appunto il lavoro sottopagato, come nel caso dell'alternanza scuola-lavoro al Fico o all'Expo, con migliaia di volontari addirittura non pagati, che hanno dato il là, diciamo, no? a poi produrre quel modello che li avrebbe poi espulsi dalla città. E quindi sì, ci ritroviamo comunque all'interno di un percorso tracciato che, anche ripetiamo, lo ripetiamo sempre, non è frutto di un evento atmosferico inaspettato, ma è frutto di scelte politiche determinate. E anche lì il libro di Marta è chiarissimo, no? Mette una dopo l'altra e capisci che poi alla fine siamo dove siamo perché qualcuno poi ha deciso così. Quindi a Marta chiedo se è possibile effettivamente far sopravvivere le città senza sfruttamento, oppure siamo arrivati a un punto in cui, come poi viene narrato spesso, no? Se interveniamo sui tetti all'affitto o mettiamo diciamo un salario minimo, le imprese scappano e l'economia crolla. domanda. Beh, ciao a tutti e tutte. Scusate. Grazie per l'invito, quindi ho detto a tutti no, quando Canella chiama Fana risponde. No, mi fa piacere tornare a Bologna, discutere con voi, discutere con Gianluca, insomma, rivedere un po' a Bologna. Allora, vi faccio una domanda ovviamente super semplice in realtà, no? Quindi, è possibile avere città senza sfruttamento? Dici sì, una città socialista potremmo dire senza sfruttamento, la potrei chiudere così. Però in realtà è molto più complessa. Secondo me ci sono... Appunto, prima di arrivare a dove interveniamo per scardinare questo circolo ormai vizioso di sfruttamento, reddito, sfruttamento e crisi, rispetto a quello che dicevi prima, come dire, la precarizzazione è stata funzionale a questo modello di sviluppo, ovvero non è che la frammentazione produttiva, gli appalti, la dosistificazione, spostare, come dire, la creazione di valore da una produzione che era sanità, industria, cultura, a turismo e rendita, si è abbassata tramite il precariato. Al contrario, il precariato è funzionale, ovvero le imprese per frammentare, per fare appalti, hanno bisogno di contratti sempre più flessibili. Ovviamente, perché i contratti di appalto si rinnovano, perché i contratti di appalto devono poterti permettere una flessibilità in termini di orari, e in Italia, se volete, appunto, abbiamo uno dei tanti pessimi record, è quello del part-time involontario, che ovviamente incide tantissimo sulle donne, ovvero il 65% delle persone che lavorano part-time vorrebbero lavorare full-time. Ora, non perché la gente vorrebbe, come dire, essere più sfruttata, no? Il lavoro alla fine fa schifo a quasi tutti, lavoriamo perché non possiamo permetterci altro, pochi possono vivere di rendita, ma perché si arriva alla fine del mese. Però ti si impone un part-time involontario, poi part-time involontario fino a un certo punto, perché sappiamo benissimo che poi c'è il fuori busta, ci sono le ore fuori, le ore che vengono riconosciute, e quindi diciamo in questa condizione di ipervulnerabilità costante. Allo stesso modo, appunto, i contratti a termine, il fatto, no, 15 anni, ormai sono quasi, sì, sono passati 15 anni, hanno detto, di più, dal 2001 è passato tanti anni, sono ormai mezzo, quarto di secolo, sostanzialmente, del dire abbiamo bisogno di contratti a termine con una motivazione produttiva e organizzativa o meno, ovvero tu puoi fare contratti a termine quando cazzo ti pare o meno, scusate, permetto questi francesismi qui dentro, o te lo puoi permettere soltanto se ci sono picchi di produzione, se c'è una organizzazione tale per cui la produzione ti richiede in quella fase una quota comunque sempre minoritaria, ed è una cosa che si controlla mai nelle aziende, di contratti a termine o meno. Sapete, non è una questione delle causali, tolta, reintrodotta, ritolta col Jobs Act, reintrodotta col decreto dignità, da Draghi, Meloni e quant'altro. Però dentro tutto questo in realtà, quindi ci sono altre 50 sfumature di sfruttamento molto più profonde, perché appunto noi abbiamo deciso, noi in questo caso non lo userei, cioè il fatto di dire il turismo aiuta la creazione di valore è davvero da trogloditi analfabeti politici economici. Io ve lo dico così, e secondo me glielo si deve dire in faccia così. Ma banalmente dal punto di vista della contabilità nazionale, che cos'è il turismo? È domanda estera di servizi prodotti all'interno. Perché il turismo non lo facciamo noi che andiamo a fare il weekend a Ravenna. Lo fanno i francesi che ogni 3 mesi hanno le 2 settimane di vacanze, la portano i figli avanti e indietro. L'unica vera limitazione fisica a questo modello da parte di domanda estera, di importazioni da parte di stranieri, di beni italiani, che sia suolo, che sia cibo, maggiormente diciamo sono case, cibo e poco altro, perché non consumano neanche granché di cultura. E anche là, qual è poi il lavoro dentro la cultura massificata? Non è una cultura accessibile e democratica. Sono, come abbiamo visto negli ultimi 15 anni, i professionisti dei beni culturali, coattivamente volontari, che se andate a vedere cosa succede dentro quel comparto, di persone iperistruite volendo, e quindi che stanno, che si sobbarcano l'autosfruttamento perché hanno studiato antropologia, perché hanno studiato... non so neanche cosa sia, però insomma guide turistiche, letterature, lettere antiche, storia dell'arte e quant'altro. No, io alla fine so fare quello, ci provo, nonostante il volontariato sia coatto, nonostante le partite IVA sottopagate, nonostante l'applicazione per una persona che invece si occupa di arte, l'applicazione di contratti tipo il multiservizi, che è stato creato nel 2008 proprio per gli appalti, quando si fa la liberalizzazione degli appalti in termini proprio di i comuni e gli enti locali, ma tutti gli enti, anche la sanità e i ministeri, non potevano più comprare direttamente, ma dovevano passare attraverso gli appalti. Questa è stata una delle grandi riforme subito, diciamo, all'inizio della, in realtà è pre-crisi, e cambia proprio il modello. Allora sorge un nuovo contratto collettivo nazionale in multiservizi, dove dentro ci può essere di tutto, dall'informatico all'infermiere, alla guida turistica, all'operatore dei call center, così come all'operaio quasi meccanico. Okay? Però è un contratto ovviamente molto più svalutato dal punto di vista salariale, dei tempi di lavoro, delle condizioni, rispetto al contratto di riferimento del settore proprio. Queste persone, parlando appunto del comparto cultura, spessissimo, quando non gli si applica addirittura il contratto con la della, cos'è, dei secondi, sicurezza, sì, tra le guardie, chiudiamo secondi in modo generico, la guardia mia security, è davvero ancora molto più basso, definito in costituzionale da Paolo Storari nel 2021, il procuratore di Milano, in multiservizi paga circa 8 e pochi euro lordi netti l'ora, adesso è stato rinnovato, ma dentro questo comparto c'entrano ormai tutti. Quindi anche là questo circolo vizioso è una frammentazione che si scarica sugli altri. E poi però abbiamo due cose. Questa roba ci sta bene ovviamente a chi? Perché se noi diciamo che ormai la rendita la possono fare in tanti, tantissimi, cioè persone che, con cui noi finora abbiamo condiviso tantissime battaglie, anche io anche la casa della nonna la posso mettere a rendita, non viene più a lottare per il salario, per la distribuzione tra salari e profitti, si sarebbe detto una volta, perché intanto posso comunque, come dire, recuperare il potere d'acquisto in alto. Guardate che recuperare il potere d'acquisto, io dopo 13 anni mi sono appena stabilita, trasferita in Italia, è un tema molto più ampio, perché c'è il diritto alla salute, dove ci curiamo e con chi, e ovviamente anche là, dove sono gli spazi proprio dedicati alla cura sanitaria, dove sono gli ospedali, dove sono le guardie mediche, dove sono i pronti soccorso e quant'altro. Se ci fate caso, non è soltanto che abbiamo le piadinerie, le hamburgerie, le pizzerie sotto casa, è che tutte quelle funzioni a servizio del cittadino di fatto non servono più, quindi il trasporto pubblico è, come dire, al di là dei prezzi che, come dicevamo l'altro giorno in radio, cioè il turista si può permettere, viene da Parigi e 2,50 euro a corsa non è così tanto, no? Il pass quotidiano se lo può permettere, noi no, ma noi non soltanto quelli che vivono nel comparto, no? Turismo e ristorazione e alloggio in generale, ma anche chi lavora dentro i servizi per l'infanzia, chi lavora dentro la sanità, chi lavora all'università, chi lavora in radio, chi fa dei lavori che erano normali. E appunto fino a 10 anni fa, nonostante il precariato, erano dignitosi. Adesso questa cosa non c'è. L'altra cosa che non c'è è che se pensi al potere d'acquisto sui servizi per l'infanzia, ma perché aprire gli asili nei quartieri, se tanto i quartieri non sono più vissuti dalle persone, perché ci stanno solo i turisti, la domanda si abbassa, non sostieni i costi perché l'affitto di quell'asilo pubblico o privato che sia sono straaumentati. Il tema è che passi da 1, esiste l'asilo, a 0, non esiste l'asilo, e t'attacchi. E quello è il potere d'acquisto, e questo lo dico anche in termini, no, spesso c'è la retorica, non abbiamo parlato anche martedì, eravamo qua all'università a parlare di questione salariale, il solito tema delle gabbie salariali, con 1.500 euro a Bologna non vivi, in provincia di Messina sì, che è pure vero, il problema è che in provincia di Messina non hai gli asili, non gli ospedali, quindi ci sono tanti servizi che in realtà possono, che la valgono zero, ma perché non esistono? Non perché sono gratis. E quindi un circolo vizioso. Dopodiché, io vi dico, passare da una produzione industriale o professionalizzante che crea valore aggiunto a comparti che sono solo di scarso valore aggiunto, perché se arriva la prossima crisi, e questo ce l'ha insegnato il Covid, non so perché non l'abbiano capito, perché significa c'è qualcuno che sta guadagnando tanto da questo, una persona che fa hamburger, che serve caffè, che lava le lenzuola per gli Airbnb, che fa le pulizie a cottime e quant'altro, domani non si può trasformare in un operaio della sanità. Cioè c'è un tema fortissimo e ci diranno, dal punto di vista della narrazione, non ci sono, i lavoratori non hanno le competenze sostanzialmente per sprigionare e aumentare i regimi di produttività che in Italia sono stagnati. Un circolo vizioso pazzesco, la narrazione ha decisioni sono effettivamente molto politiche. Ora, io appunto non conosco così bene Bologna, così come non conosco Parma, dove mi sono trasferita, però se prendi l'Italia o le grandi città che ormai vivono di renta, e chi vive di renta è un tema che ci dobbiamo porre, dall'altro lato però noi sappiamo benissimo che ancora, diciamo, in un regime amministrativo come quello italiano, le scelte produttive e le scelte, diciamo, tra rendita e lavoro ancora esistono dal punto di vista delle responsabilità del comune così come della regione. La sanità è ancora in capo alla regione. Noi sappiamo che tipo di appalti, che tipo di non appalti eventualmente fare in sanità, è una scelta regionale. Quindi la politica regionale si assumesse la responsabilità di togliere i presidi, come dire, ospedalieri e quant'altro, così come il comune è il responsabile di dire: io alloco tot milioni di euro per fare il secondo people mover, quella cosa assurda in cui ci si muove a Bologna, piuttosto che gli asili, perché gli asili nido sono appannaggio, come dire, della politica comunale. Ed è di nuovo dove metto i soldi per creare produzione, valore e distribuirlo, che poi diventano servizi che posso fare o meno pagare, secondo ognuno, insomma, lo intende come vuole. Per me il welfare, quindi, dovrebbe essere gratis e poi ripagato nella fiscalità generale, però un conto è non averli, un conto è dire no, dobbiamo tagliare, e quindi la questione è tagliamo il servizio o ritagliamo il salario per l'ennesima volta. Perché questo sta risuccedendo, visto che è rientrato anche il patto di stabilità dal punto di vista europeo. Però dovrebbe dire, scusate, ma prendiamo tutto il bilancio, dov'è che state spendendo i soldi? Come li allochiamo? Perché non avere asili nido, non avere parchi giochi, non avere biblioteche, non è una questione di romanticismo, è una questione di come vivono le persone degli spazi di democrazia, perché i figli dei ricchi, o i figli dei benestanti, chiamiamoli strati benestanti, si possono permettere di avere tutte, se volete, le attività extrascolari, questo è uno dei termini di ricerca molto interessante. I radical chic di sinistra che vivono di rendita mandano i figli nella scuola pubblica, però poi il pomeriggio, no, pagano fior di quattrini, con il violino, lo spagnolo, il russo, il cinese, la danza classica e quant'altro. Le altre persone no, e soprattutto non vivono più a Bologna. Quindi questi sono tutti i temi, come dire, di trade-off, si dice in economia, di scelta politica, dove crei il valore, come lo distribuisci e a chi lo fai rimanere. L'ultima cosa che vorrei dire su questo è proprio sul turismo, proprio legata alla questione turismo e lavoro, ok? Non è che queste robe le possiamo cambiare in 10 minuti. Eppure però il comune può dire una cosa. Ha due strumenti, secondo me, che sono potentissimi. Il primo è tutte le licenze di Deor, queste cose che ormai non possiamo più passare da nessuna parte, perché sono i Deor, ok? Tu le puoi dare condizionate. Dimmi quanto paghi, come fai a lavorare i tuoi dipendenti e io ti rilascio la licenza. Questa è una prerogativa semplicissima, non ci si può appellare a niente di fronte a questo. Eppure a me non pare che questa discussione esista. L'altra cosa, in tutti gli altri appalti, che sia, cioè che non possiamo reinternalizzare tutti subito, ok, è vero, però possiamo fare a pezzi, possiamo dirci anche per capire quanto ci convenga o meno, perché comunque studiando molto gli appalti non ho capito fino a che punto questa roba convenga sia alle amministrazioni pubbliche sia alle imprese, quello è un altro comparto, insomma, da studiare molto bene cosa succede al capitalismo italiano. E dire, quando io do in appalto qualcosa, che sia il servizio di mense, di pulizia, il giardinaggio, poi il comparto sanitario, l'infermieristica, la logistica, il trasporto e quant'altro, piuttosto che presentare soltanto il DURC, foglietto, diciamo, sono a posto con i contributi, fammi vedere che contratto collettivo applichi e introdurre, per esempio, ma ovviamente davvero soltanto un esempio perché mi viene semplice farlo, dire: chi paga sotto i 12 euro netti l'ora non può vincere il mio appalto. Ti riorganizzi. Se sei inefficiente tu dal punto di vista aziendale, è un problema tuo, non può essere scaricato sui lavoratori. E sono scelte che ovviamente non stanno mettendo in discussione il modello di sviluppo quando invece dovremmo farlo, ma sono cose che cominciano a disincentivare le persone a dire: io posso investire e fare rendita su quello perché è facile e perché davvero fa aprire slegate, piuttosto che invece che forse mi conviene investire in qualcosa che la crea, cioè che il valore lo creo davvero, poi conviene redistribuire, è una questione conflittuale, però se lo lasciamo libero il conflitto non lo possiamo più fare. Hai risposto benissimo, direi. Per tornare su Bologna, a Bologna si fanno i patti, per esempio il patto per la logistica etica, i protocolli, eccetera, eccetera. Però il punto è che poi, io non lo so, se qualcuno va a controllare. Ecco. Quindi su questo poi chiedo a te, perché mi pare che l'inchiesta che abbiamo poi utilizzato in tanti sui nostri mezzi di informazione, comunque è stato, diciamo, un unicum, no? Perché forse, anche questo è il tema, c'è comunque carenza di inchiesta sociale oggi in Italia, no? E anche immagino a Bologna. Ecco, quindi chiedo anche a te, perché c'è questa carenza? Perché gli osservatori, per esempio, no, vengono smantellati? Ora parlavamo di cultura, mi viene in mente che c'era in Emilia-Romagna un osservatorio che andava a guardare quanti erano gli occupati all'interno della cultura, eccetera, eccetera. Questo osservatorio è stato riconvertito in osservatorio che ora fa promozione turistica, per dire, cioè, come proprio una parabola assurda. Ecco, quindi sì, volevo chiedere a te questo. Beh, questo ha molto a che fare con la funzione politica poi della conoscenza, perché fare queste cose costa, nel senso cioè costa fatica, costa di mettere in campo competenze, devi starci dietro, di metterti, insomma è molto difficile riuscire a farle. Ma, io notavo una cosa, vengo poi dall'università in realtà, che di ricerche quantitative, quindi in cui in qualche modo metti in fila dei questionari, cioè, se ne fanno pochissime. Se voi prendete una rivista scientifica di sociologia, che è poi la mia, il mio pezzo di io quello faccio, ma, vedete dentro, sono tutti studi di caso, tante interviste, ma la parte in cui uno dice adesso io tiro giù una valanga di numeri attorno a cui dopo andare anche a costruire dei ragionamenti non si fa. Perché? Perché appunto ci vuole tempo e soldi per farlo. Quest'anno, ad esempio, siccome appunto nel 2024 era successa quella cosa che vi stavo dicendo prima sull'occupazione femminile, e siccome nel frattempo abbiamo avuto quell'esperienza del referendum che appunto che ci ha visti coinvolti, e vista come è andata, io avevo proposto alla Camera del Lavoro, ho detto: ma perché questo osservatorio in cui noi parliamo di tutte queste cose, anziché presentarcelo a Bologna con la stampa, non andiamo a presentarlo pure sui territori? E proviamo anche un po' a smembrarlo, andiamo a vedere cosa succede, no, in Appennino, cosa succede al distretto di Pianura Est, Terre d'Acqua, Pianura Ovest, andiamo un po' a raccontare lì, anche per vedere se poi questi dati ritornano, perché magari vedo delle cose, le dico qui, nessuno sa che cosa succede a Crevalcore, e invece a Crevalcore ti dicono, no, guarda che quel dato cambia qui per questa ragione. Abbiamo fatto questa cosa con serie presentazioni in tutte le zone, ed è uscita secondo me molto bene tutta la diseguaglianza che si vive su Bologna, anche dal punto di vista territoriale, perché quella dinamica che prima vi ho detto dell'occupazione femminile che si perde, la deindustrializzazione, eccetera, eccetera, sono dinamiche tutte di Bologna città, perché in realtà intorno cosa succede? Che l'industria aumenta in termini di dipendenti, soprattutto nella Valsa Moggia, aumenta nella zona di Pianura Est, aumenta la parte commercio all'ingrosso di Pianura Ovest, insomma, cioè, non è, come dire, un territorio che si sta impoverendo, è proprio il comune che si sta, diciamo, impoverendo e sta vivendo, diciamo, quelle cose si sta caratterizzando per quelle cose che raccontava Marta, e questo lo vediamo anche sul piano demografico, perché la popolazione in Emilia Romagna rimane più o meno mi pare quest'anno aumentava dello 0,3, quindi rimane più o meno lì. Bologna metropolitana 0,3, anche Bologna metropolitana, il comune di meno. Poi le zone in cui cresce la popolazione, l'Appennino, prevalentemente stranieri, anche qua dico stranieri perché la statistica così me la etichetta, non riesco ad andare un po' più nel dettaglio, che trascinano la demografia, no, nella zona dell'Appennino. Pianura aumenta prevalentemente con gli italiani e italiane, sempre per stare alle etichette, diciamo, statistiche, nella prima fascia, Castelmaggiore, Granarolo, Castenaso, quella parte lì, stranieri, più avanti, alla periferia dell'impero, quando vai verso Ferrara, cominciano invece a crescere nuovi stranieri. Quindi è un territorio che si sta molto differenziando, anche sul piano proprio geografico, e la rischiettizzazione per la questione dei servizi che diceva prima Marta, è centrale, perché se tu hai una popolazione che manco sa di avere dei diritti, che manco sa come si accede, no, a delle cose, vive in campagna, però, dove non c'è l'autobus, dove non c'è, avrà anche più difficoltà, diciamo, no, ad avere accesso a quelli che appunto ne consideravamo delitti. Dall'altra parte c'è l'invecchiamento della popolazione, perché chiaramente la popolazione straniera è quella un po' più giovane, quella che ancora fa figli, è quella che fa tutta una serie di cose che invece ad esempio a Bologna si vede sempre meno. In certi quartieri tu hai effettivamente una popolazione anziana che rimane sempre più sola nelle loro case di proprietà, contorno un sacco di stranieri che si muovono e che cercano case, no? Ed è una situazione che pure per loro effettivamente è quantomeno difficile, se non capisci, se non c'ha gli strumenti, anche i presidi, diciamo, che ti permettono, cioè presidi penso ai centri sociali, penso a quelle cose che ti permettono anche di entrare in contatto con un pezzo di popolazione appunto che cambia. Volevo dire una cosa, perché io prima ho detto non mi ricordo cosa ho detto, però ho detto qualcosa sul local PAL, dicendo che avevano anche ragione, diciamo, a dire di non volersi assumere la responsabilità di tutto il precariato che c'è. E giustamente Marta mi ha detto, ma insomma, no? Cioè, cerchiamo invece di fargli assumere questa responsabilità. E io invece ho in testa il fatto che non è giusto che sia il privato a doversi assumere quella responsabilità lì. Non se lo deve prendere la famiglia, no? Il fatto che io sono precario. E c'ho pure in testa che per fare quella roba del ribaltare la narrazione, per fare quella cosa del aumentiamo la tassazione, anche per fare quella cosa che sta facendo, mi pare, il Comune di Bologna, non so a che punto siamo, dell'agenzia per l'abitare, cioè chiediamo ai privati di darci le loro case a disposizione e poi ci pensiamo noi a collocarle in base a dei criteri, diciamo, pubblici, trasparenti. Diamo il fondo affitto, cioè, nel senso, diamo la tutela in caso di mancato affitto, cioè cerchiamo di coinvolgere chi ha le case, perché io ho paura che a forza di prendercela io perlomeno io che me la prendo abbastanza con chi ha la casa di proprietà, cioè la seconda casa quanto di proprietà, finiamo come con i piccoli imprenditori che adesso, dopo 20 anni del berlusconismo, tu parli con uno che ha un ristorante con due camerieri e parla come se fosse una multinazionale, ti parla del costo del lavoro, ti parla ma c'è due dipendenti, cioè nel senso, forse, e io questo qua penso che sia un errore pure nostro del sindacato, io, cioè, se parlo spesso di un regalo, cioè vediamo il capitale pure dove non c'è, però, perché lì c'è un po' di gente che lavora, no, quasi, diciamo, a pari grado. Io trovo assurdo che ci sia una persona, in quel caso il padroncino, che si deve assumere la responsabilità anche dei dipendenti. Quindi anche lì, però io vorrei evitare che sul tema casa si finisca a fare quel discorso lì, cioè di alienarci completamente il dialogo con queste persone, che invece io penso, soprattutto dopo quello che è successo a Bologna la settimana scorsa in via Michelino, e anche conoscendo Bologna e la gente che la vive, secondo me lì ci potrebbe essere invece l'occasione, c'è l'occasione per poter dire guarda che qua stiamo andando veramente alla dimostrazione plastica di quella cosa che è soltanto... Che fino a prima di mercoledì scorso era soltanto teorica, cioè quando uno dice mandano via lavoratori per mettere gli Airbnb, uno dice però non è che c'è in testa la famiglia singola, cioè lo dici, no, pensando al mercato come cambia, no, lì hanno proprio nomi, cognomi e facce che io pago l'affitto e non ho più diritto alla casa perché vogliono la danno un fondo per fare Airbnb e talmente tanto poco come gliene frega qualcuno di questa casa che ti sfondo la parete pur di tirarti fuori, cioè nel senso, una cosa che proprio cioè plasticamente è proprio la realizzazione di quel conflitto tra rendita, no, e lavoro, tra profitto e lavoro, che di cui parlava Marta e che vediamo e che vediamo anche nelle dichiarazioni delle imprese oggi, perché il fatto che non trovino persone che vengono a lavorare a Bologna, la polizia, hanno difficoltà a trovare poliziotti che vengono a Bologna a lavorare, non perché sia una città particolarmente complicata, ma perché proprio dicono, no, guarda che costa troppo. Lo stesso però dicono anche le aziende private. Quindi là è proprio, c'è cioè, quel conflitto tra profitto costruito a partire da rendita, insomma da finanziarizzazione, e il lavoro pratico, cioè il profitto che ho fatto sto tavolo, proprio si rende plastico. Però ecco, volevo soltanto dire quella cosa lì sulla responsabilità, perché secondo me invece quello lì è un tema centrale, perché specialmente a Bologna, diciamo forse prima fuori, che storicamente è una città in cui il tema dell'affitto delle case è una questione che si costruisce attorno alla presenza dell'università. Prima di venire stavo guardando i dati sul del censimento sulle, su quante case sono occupate da persone che sono in affitto, e praticamente Bologna è la seconda città dopo Napoli in Italia per numero di case occupate da affittuari, siamo al 64%, mi sembra, noi c'è una media complessiva del 72%, anche quelli là non sono dati che cambiano di anno in anno, cioè non è che apro due host e mi cambia la percentuale del censo, ma però effettivamente è una città che si, in cui quel tema lì dell'affittare le case è qualcosa che poi, ecco, che caratterizza anche il tipo di benessere che si era costruito, diciamo, su Bologna, e su cui secondo me bisogna ragionarci in maniera, cioè, in maniera concreta. E l'ultima cosa, il Comune di Bologna ha fatto una, ha inserito una di quelle clausole che dicevi tu prima, ora io non ho il testo, quindi però è una cosa che ho sentito dire più volte dal segretario della CGIA, non lo so, che diceva abbiamo inserito la clausola sociale per le mense nelle scuole, in cui si dice che tu non puoi fare un contratto a meno del contratto collettivo nazionale della, della ristorazione collettiva, e andrà deserta la gara d'appalto. Nel senso, non è che non si può fare, è che farlo. L'ultima cosa, chi fa i controlli? Cioè, in Emilia Romagna, cioè io sono romano, mi sono reso conto che effettivamente il rapporto con le istituzioni ha un senso, cioè non è come nel Lazio, non è come in altri posti in Italia. Se pensate alla vertenza IUPS, no? Quella, appunto, 200 lavoratrici sull'orlo del licenziamento, grande presidio, grande sciopero, interessantissimo anche come è stato costruito lo sciopero, e poi si è arrivati alla regione, la regione ha detto: abbiamo dato 4 milioni di euro per fare l'azienda, se licenziate queste persone ci ridate. E l'azienda ha detto: no, aspettiamo allora. Quindi hai un rapporto con le istituzioni che ti permette di fare, no, ancora di progettare delle cose. E questo secondo me è molto importante, perché quando tu firmi in patto, di solito, insomma, c'è un certo tipo di controllo, poi magari non è risolutivo, quindi il tema agenzia abitare, piano casa, nel frattempo c'è quello che è successo, però diciamo c'è una cornice anche istituzionale che ti permette di dialogare su certi temi, poi vediamo anche come si è risolta la questione donne in zone, che non è che si è risolto il problema abitativo, si è risolta quella questione lì per quelle famiglie specifiche. Oltretutto su questo, come dire, il comune spende 3 milioni e mezzo l'anno per pagare alberghi alle persone sfrattate, forse quei soldi lì, se fosse stato un po' lungimirante ad essere ristrutturato uno dei tanti stabili di lo stesso che è stato occupato, tra l'altro, che invece viene dato in concessione per 99 anni per fare uno studentato di lusso, per fare invece dei residence per persone in transizione abitativa, forse le cose sarebbero diverse. E infatti io volevo partire un attimo anche da qui per l'ultima domanda a Marta, nel senso che, vabbè, io e Salvatore facciamo i giornalisti, soprattutto su Bologna, poi ovviamente ci occupiamo anche di temi nazionali e internazionali, però siamo un po' dentro, non noi nello specifico, però ormai la comunicazione mediatica funziona così, tra i battibecchi, tra il governo nazionale e gli enti locali, e non finanziate, non ci date, ci tagliate i fondi, ci tagliate i trasferimenti, eccetera. Mentre io vi ringrazio, sia Gianluca che Marta, perché già dai loro primi interventi abbiamo capito, da un lato, che delle leve locali ci possono essere, poi possono funzionare o meno, insomma, però non è vero che tutto dipende sempre da quell'altro, dalla controparte, poi specie quando, come dire, al governo c'è la parte opposta, no? Perché se invece c'è la stessa coalizione, diventa un po' di più difficile ingaggiare questa cosa. E dall'altro che alcuni fenomeni, come noi stiamo cercando di dire, e quindi non ci eravamo messi d'accordo prima, in questo ciclo di incontri, in realtà sono stati anche favoriti. Quando Gianluca parlava dell'istruttoria del 2019 con l'Epore che spingeva sul turismo, è esattamente quello che abbiamo detto nel primo incontro, proprio qua, dicendo così, che questi meccanismi sono stati favoriti, non consapevoli bene di quello che poi avrebbe creato, come dire, in un tessuto come quello di Bologna, dove la manifattura era molto più forte, invece puntare su un altro settore che era a basso valore aggiunto, come quello del turismo. Però, insomma, per smorzare un po' l'ottimismo, e so che Marta è bravissima a smontare l'ottimismo, l'ultima domanda che ti volevo fare è questa. Ieri con un collega di Radio Popolare commentavamo i 30.000 licenziamenti di Amazon per sostituirli con l'intelligenza artificiale, quindi il tema della piena automazione, e lui diceva: beh, ma dobbiamo essere contenti se ci sono meno lavori di merda, come quelli di Amazon a tutti gli effetti sono. E io gli ribattevo: sì, sono d'accordo, vale sempre il motto di liberare l'uomo dal lavoro, però dati i rapporti di forza che ci sono nel mondo oggi, mi sembra che al momento l'uomo possa essere liberato solo dal salario più che dal lavoro. È un po' questo il tema anche è politico, no? Sulla forza di imporre. In questo caso si parlava dell'automazione, quindi c'era la questione del reddito universale, ma possiamo parlare anche di altri temi. Non siamo riusciti a portare in Italia una battaglia, a vincere una battaglia sul salario minimo, che addirittura le proposte avanzate da centro-sinistra erano già molto blande, diciamo così, erano sui 9 euro, mentre c'erano battaglie sociali che invece chiedevano già anche un salario minimo più alto. E, perché la sensazione è un po' che appunto adesso oggi stiamo parlando di lavoro, ma altre volte parlavamo appunto della casa, dell'urbanistica, di tanti altri processi, è che siamo un po', come dire, in una situazione in cui disperata solitudine e non si riesce a esprimere una forza collettiva. Cioè, i referendum che ci sono stati su cose sacrosante non hanno raggiunto il quorum. Insomma, che fare? Lo sapevi? No, nel senso, che dobbiamo fare? Dobbiamo espatriare? No, vabbè, sono appena rientrata dopo 13 anni, se poi mi prende malissimo, già, insomma, la situazione mi incoraggia. Faccio due passi indietro, poi giuro rispondo pseudo. La questione dei dati. Io sono un'economista quantitativa, io smadonno tutti i giorni perché l'Italia è un paese che non raccoglie dati su tantissime cose, soprattutto legate a cittadini. Le statistiche sui conflitti, cioè sugli scioperi, il numero di scioperi, le ore scioperate, si è fermato, non mi ricordo quanti, forse una decina, una quindicina di anni fa. Poi è importante, è una scelta politica. Così come, per esempio, ogni tanto mi ossessiono con le cose, più di decenni sono ossessionata con gli appalti, io mi sono andata a guardare tutti i bandi capitolati di gara delle grandi città su pulimento, guardianeria, mense, eccetera. Se andate a leggere questi grandi capitolati, non quelli di Consip, proprio quelli di Milano, voi vedete che quando c'è cioè, chi lavoro, salario, sono tutte le parole chiave che poi ci servono a capire chi sono questi lavoratori, perché io che lavoro proprio dal punto di vista micro quantitativo sul tema degli appalti, chi è un lavoratore esternalizzato, non ho i dati, devo usare delle tecniche iper sofisticate per poi alla fine dire un pezzettino piccolo che non è generalizzabile, insomma non mi sto più a tediare. Il tema è che dentro i capitolati c'è scritto sul lavoro, cioè vuol dire il bando verrà assegnato soltanto a coloro che applicano il contratto maggiormente rappresentativo di settore. Punto. Ma quante persone ti. Cioè, poi c'è tutto, che ne so, sul pulimento delle biblioteche c'è scritto che pulire uno scaffale, cioè un piano di uno scaffale di biblioteca costa 0,20 centesimi. Pulire una scrivania ti costa 0,40. Sul lavoro non c'è niente, cioè c'è un dettaglio, voglio dire, enorme. Sul lavoro non c'è niente, ma quante persone alla fine state occupando, per quante ore, quante le pagate effettivamente, chi sono, eccetera. Non abbiamo un dato sulle scenarizzate. Ora, questo secondo me, anche lì la scelta di ma chi assumi o chi crei, per esempio, anche scenarizzandolo, perché non puoi assumere al comune o in regione direttamente domani mattina 10 ricercatori che fanno questo, però di dire apriamo, voglio dire, il laboratorio per fare non l'indagine sociale, io sono una pro indagine, ora c'è tutto il tema tra indagini e dati organizzativi, Luca mi capirai, parlo di cose strane, ma in realtà il tema è che poi giustamente Giovanni dice, poi devo andare provincia per provincia, comune per comune, a capire come il mio dato sia rappresentativo e generalizzabile anche in un altro contesto, quando noi invece siamo in grado di raccogliere una valanga di dati, e se pensate siamo sotto la dittatura dei dati, estraiamo dati da tutte le parti, su tutte le nostre dimensioni, sociali, sanitarie, lavorative, quanto camminiamo, quando abbiamo il ciclo, se abbiamo mangiato, le calorie, ci pensate, però poi mettere delle, cioè, come dire, registrare il numero di lavoratori impiegati, eccetera, è una grande scelta politica. Su questo serve, cioè, fare una promozione, non so se l'INES lo può fare, o Radio Statistico, piuttosto che zero, e dire noi abbiamo bisogno di sapere chi sono questi, lo può fare il comune, perché il comune ha tutti gli atti. E il comune può dire all'aggiudicatario, ma tu, alla fine, di quante persone ti stai servendo, per quante ore lavorate, a quanto le paghi, eccetera, e cominciare a crearlo quel dato, e poi integrarlo in maniera, come dire, automatizzata. Ora, sono tutte cose che sembrano banali, ma la scelta politica del quale dato raccogliere è fondamentale. Perché se tu non hai il dato, ora sì, noi abbiamo delle grandi teorie in cui non c'è bisogno del numero. Anche Lenin diceva che i dati servono e poi hanno la testa dura, perché davvero ci restituiscono un pezzo di realtà che invece viene spesso sottaciuta, come dicevamo poc'anzi fuori, rispetto al tema della casa. Ok, io non me la prendo con un piccolo proprietario che ha una casa o che ne ha una e mezza, poi dipende quanto è grande questa casa, ma noi non lo sappiamo. Cioè, il tuo piede a terra di manager a Bologna, di quanti metri quadri e quanto vale rivendendolo? Quello è un dato che magari ci fa dire che tra i piccoli, i monoproprietari, c'è una grande differenza. Questi dati, se non li raccogliamo, non capiamo con chi fare quell'alleanza. E vado al, vabbè, che facciamo con i 30.000 licenziamenti di Amazon? Allora, io, lo sapete, da quando ho partorito non leggo più le notizie, non puoi fare niente, però sapevo, ovviamente, di questa notizia dei licenziamenti e del post del nostro caro amico giornalista di Radio Popolare. Allora, certo, tutti vorremmo liberarci dal lavoro, ma non soltanto poi poterci campare, quindi la discussione sull'eventuale reddito, considerato che in Italia non c'è stata, no, i dibattiti non si sanno fare, non si fanno, io non capisco qual è il problema. Però il tema è un altro. È davvero, ho fatto questa grande introduzione sul raccogliere i dati non per niente. Le cose vanno prodotte. Chi è che sceglie cosa produciamo? Che siano i droni per le trasfusioni o che siano i dati da raccogliere? Quella è produzione. L'intelligenza artificiale tutt'oggi si fa con delle persone davvero in condizioni di sfruttamento atroce, ovviamente tutte colonizzate nel sud del mondo, che stanno là a correggere ChatGPT e quant'altro. Quindi siamo attenti, perché anche se ci danno, io l'ho sempre detto questa cosa, alla fine sono diventata una redditista, quando ho tolto il reddito di cittadinanza, io da lavorista sono passata per la sfrenata sostenitrice del reddito di cittadinanza, perché è giusto, perché è una cosa, uno strumento di liberazione che ti permette di dire no, io 500 euro al mese la cassiera non la vengo a fare. Dall'altro lato mi interessa capire però appunto qual è il terreno di battaglia su che cosa produciamo, e allora produrre dati che sembrano colonnine in Excel, in realtà è un potere democratico enorme, o produrre tecnologia, quella cosa qualcuno la deve produrre, e se non stiamo sui luoghi di produzione, cioè stiamo sul menù, no? Se non stai al tavolo delle decisioni c'è qualcun altro che le prende a te, e non mi sembra che siamo nel contesto storico in cui possiamo delegare il che cosa si produce. Quindi su questo secondo me il che fare è mai sottrarci alla produzione, perché sennò chi giustamente ha il capitale, chi ci può mettere becco, dati non più livelli di democrazia economica, dice ma sai, io chiudo e mi vado a comprare un intero stabile qui a Bologna per farci gli Airbnb o per farci banalmente gli store di storage, i magazzini con le lavanderie, non è soltanto, come dire, il cambio di destinazione. Non si può dire, decidere anche di utilizzare spazi enormi che potrebbero essere esercizi, che potrebbero essere biblioteche, che potrebbero essere case per le persone che vivono in questa città, e farli magazzini, deposito dei bagagli, farci le lavanderie per pulire, eccetera, eccetera, è un cambio di destinazione che, francamente, dal punto di vista democratico, io vorrei esserci. E se non sappiamo neanche più dove siamo, non ci incontriamo perché abbiamo il lavoro e quant'altro, questa cosa è difficile. L'altra roba, appunto, secondo me, puoi dire, una grande inchiesta sulla casa, che penso sia ferma agli anni 70 in Italia dal punto di vista politico, è necessaria. Anche là ci vogliono tantissime teste, tantissime persone vanno a stalkerare ma non soltanto il sindaco, ma proprio, non so, l'ufficio urbanistica, cacciate tutti, andiamo a fare le fotografie a tutti i registri urbanistici, cioè noi stessi. Ora sembra una cosa, cioè, ma ci fai fare il lavoro di merda, il bullshit jobs. Sì, io facendo ricerca, quando ho bisogno di fare delle cose in archivio, vado là con uno scanner e faccio 4.000 volte al giorno così. Quelle robe me le digitalizzo e non vado a sfruttare l'indiano che le digitalizzerebbe per un millesimo, ma quella roba mi dà un'informazione enorme su cui costruire una battaglia. L'altra cosa, vabbè, il tema Amazon è un po' più basso, perché appunto si stanno mangiando, come dire, il mondo dal punto di vista politico e democratico. Siamo davvero, secondo me, allo scontro di cui parliamo poco, di capitalismo contro democrazia. Secondo me, cioè, sono temi molto grandi, però in realtà siamo allo stato di fatto davanti a questa questione. L'altra roba, secondo me, per esempio parlando un po' di sistemi locali, ne abbiamo due altri grandi temi che si legano fortemente ad Amazon e allo sviluppo e la diffusione dell'intelligenza artificiale. Quanto ci costa in termini di cambiamento climatico ogni domanda o ogni foto ritoccata con l'intelligenza artificiale? Un botto. E allora là, se volevamo fare il boycott, quello è un boycott, come dire, dal punto di vista ambientale, ipersostenibile. Ne parliamo troppo poco, cioè la facilità con cui noi entriamo a trasformare le foto, o li utilizziamo, io per chiedere le linee di codice, lo ammetto, è enorme. Su questo c'è una battaglia da fare, anche perché il passo attuale, ora a Bologna sì, stanno facendo un data center che in realtà sarebbe il supercomputer, eccetera, ma è poca roba, ma la colonizzazione già del sud Italia, del sud della Spagna, è tale per cui Amazon non apre più l'infrastruttura logistica, che è stato il grande modello di sviluppo, cioè di possessarsi dell'infrastruttura, delle strade e dei capannoni sparsi su tutto il territorio dei vari paesi, adesso è dov'è che vado a fare gli accordi per aprire i data center. I data center sostanzialmente sono dei capannoni, dei server, che estraggono una quantità di acqua impressionante in una fase, come dire, di siccità alta, e come dire, le quantità di energie elettriche consumate, che poi sono i nostri dati, enormi. Quello è il loro diciamo, prossimo passo, ma che è già attuale. Ora, sembra una cosa, come parlavamo di Airbnb, siamo arrivati ai data center, però quindi dal micro poi dobbiamo vedere però qual è la grande cosa, anche perché se ogni bar deve essere fotografato e messo su Instagram, stiamo alimentando esattamente quel sistema. Io ero adesso a Cardiff a fare proprio un progetto sui data center in Amazon in Aragona, e i numeri che si vedono, cioè come dire, proprio dell'estrattivismo energetico eccetera, sono enormi. Allora chiediamoci banalmente: quando arriva il fondo che si compra 3-4 stabili a Bologna, perché di nuovo apro una parentesi e la richiudo, lo dicevo prima fuori, il tema non è il piccolo proprietario, anche se io a un certo punto, quindi un minimo di disciplina ci vuole, ma su questo ovviamente le coalizioni sono molto più, no, di lungo periodo. A Berlino nel 2021 lanciano un grande referendum sulla questione casa e dicono: noi vogliamo l'esproprio di tutti gli immobili di coloro, quindi che sono business, che sono imprese, corporazioni, che detengono più di 3.000 unità immobiliari, che corrispondevano esattamente a 240.000 case, ok? L'hanno vinto. Ovviamente che cosa significa? Lanciare una battaglia con un nemico ipervisibile, che non è il tuo vicino di casa, l'amico che ha ereditato la casa, quell'altro che dice: ma dai, ma fammelo fare su Airbnb, perché se no del figlio non pago la retta del nido. Cioè tutte queste cose a cascata che conosciamo vicino a noi. Però là si dice: c'è una battaglia che si può fare, c'è un nemico ed è un modello di sviluppo. Ora questa cosa, come dire, io la lancerei, anche perché l'esproprio si può fare. Che significa banalmente, non che proprio ti requisisco tutto, ma anche soltanto costituzionalmente in Italia, o te lo gestisco io e quindi comunque ti corrispondo un pezzo di rendita, ma lo fai ai miei interessi generali. Se poi metti dentro che i grandi fondi che si stanno mangiando, un pezzo di Milano, ora non so la situazione di Bologna, ma sicuramente sappiamo già un bel pezzo di Londra e quant'altro, questi sono anche dei grandi investitori in intelligenza artificiale. E guardate che macroeconomicamente il cerchio si chiude: rendita, estrattivismo, colonialismo, imperialismo, l'economia e il genocidio. Allora, scusate, forse l'ho buttato un po' più là sul che fare, ma è di ragionare, no, che certo. Noi giustamente sul quartiere ci dobbiamo occupare dei nostri temi anche con chi parliamo, perché poi col vicino di casa non è che gli posso dire sempre ti vengo a, no, a picchiettare, eccetera. Però fare delle riflessioni in cui, uno, riconosciamo dei nemici alti, intanto buttiamoli in alto. Due, ci richiediamo a noi stessi degli strumenti di lotta, e se non abbiamo le informazioni in sta battaglia non si gioca. Terzo, non sottrarci al conflitto, ma in ognuno dei nostri momenti. Cioè, io non capisco davvero, io mi sono trasferita in Italia adesso, io ho amici milionari francesi, milionari. Quando ho detto che io pagavo 930 euro al mese di asilo nido a Parma, mi hanno guardato dicendo all'anno, milionari, eh? No, io, dice all'università. Dice, no, al mese, mi fa, no, non è possibile. Questa roba, che era la stessa cosa di quando io nel 2017 dicevo ai colleghi francesi, guardate, in Italia abbiamo sdoganato i voucher o il lavoro gratuito, e loro mi rispondevano, ma nel capitalismo il lavoro gratuito non esiste, c'è il salariato. Allora, come dire, dal piccolo al grande, l'Italia continua ad avere, come dire, è come se noi non riuscissimo mai a trovare il che fare, perché ci diciamo, sì, ma in Italia c'è il piccolo proprietario, c'è il piccolo... Sì, ho capito, sempre nel capitalismo viviamo, se abbiamo spostato la produzione, come dire, dal valore, il profitto alla rendita, dobbiamo aggredire teoricamente quel pezzo là. Le coalizioni si fanno, perché banalmente. Ora, un'altra cosa che io vorrei sapere, ci penso in questi giorni, è davvero più. Ma tutti gli esercenti che hanno dovuto chiudere perché sono stati, come dire, espulsi da un lato perché aumentavano gli affitti, non so, dei vecchi ristoranti, delle lavanderie, insomma, non so, le sala giochi, non so, cose del genere, le librerie, i cinema, insomma, ce ne sono tantissime, senza andare in quelle cose radicali che vogliamo la cultura, ma che invece è molto importante. Questa gente qui, dove sta? Di che vive adesso? Erano persone che hanno potuto accumulare immobili e quindi gli è andata bene perché hanno, come dire, lasciato, ma comunque potevano sopravvivere di rendita, o sono persone in difficoltà? Perché anche là, se devi fare una coalizione politica, cioè, come dire, le coalizioni sono sempre relative nella storia, in questo momento se tu sai che una parte di questi davvero se ne sono andati zoppati per l'aria, magari li vai a raccattare, e non fai la cosa, sei un piccolo imprenditore, mi fai schifo perché io sono comunista, no! Però dobbiamo capire chi sono, perché io non lo so, cioè io banalmente non vivendo qua non lo so, però sono cose molto importanti, quindi la prossima inchiesta io la farei su piccoli e micro imprenditori saltati in aria dalla, no, per la turistificazione, perché magari questa è gente che è diventata dipendente, comunque è passata da essere piccolo imprenditore a lavoratore o a rentier, e quello ti divide gli strati di classi poi. Questo è il momento in cui, appunto, se dal pubblico ci sono domande, riflessioni, eccetera, ecco. No, ho preso alcuni appunti e comincio da una cosa, peraltro, a partire proprio dall'ultima riflessione che tu hai fatto, cioè andiamo a parlare chi possiamo coinvolgere. Ecco, io sono molto meno ottimista di entrambi. Salvatore e Alessandro sanno che io sono una grande appassionata di commenti sotto le notizie che appaiono sui social e che vengono postate dai media bolognesi, ETV, Resto del Carlino, quelli di Radio Fujiko e di Zero sono molto più educati, molto più, come dire... Però insomma, appunto, lui li blocca, fa finta di non vedere, io sono masochista e invece vado a leggere. E, parto da una cosa divertente. Una decina di giorni fa su Repubblica Bologna è apparso questo articolo in cui, secondo un sondaggio, il proprietario bolognese medio è un sessantenne o over sessantenne single, e questo apre secondo me poi a delle possibilità anche di business interessanti, perché si potrebbe banalmente aprire un'app di incontri in cui il rating della persona cresce all'aumentare della proprietà immobiliare. E, il punto vero è che se tutti noi qui in questa sala siamo assolutamente d'accordo e concordi con quanto voi avete detto fino ad ora, io ho l'impressione che là fuori invece la situazione sia molto meno rosea di quanto, insomma, non ci appaia qui dentro in questa sorta di bolla, perché da appunto analista e osservatrice dei commentatori medi della stampa locale, La difesa a spada tratta della proprietà invece pare proprio il perno sul quale si infrange qualsiasi tipo di discussione, cioè la proprietà privata è sacra. Ecco, io da quando è stato sgomberato lo stabile di via Michelino non sento altro, peraltro ho visto anche ricostruzioni particolarmente fantasiose, no, dell'articolo 41 della Costituzione, per cui la proprietà privata, sulla proprietà privata si basa la società civile, ci sarebbe scritto in Costituzione, e altre come dire, declinazioni simili. Il punto è che l'Italia è un paese di piccoli proprietari, cioè a differenza di altre realtà che tu hai citato, no? la Francia, la Germania, il nord Europa, in cui come dire, l'investimento sul mattone è molto meno sentito. Questa è esattamente una realtà territoriale di piccoli proprietari e la famosa lotta dei poveri che ormai si perpetua da qualche anno, sicuramente avere un immobile di proprietà diventa ciò rispetto al quale, no, ci si arrocca, diciamo così, rispetto alla difesa del proprio pezzo, appunto, di solidità nell'assenza di qualsiasi altra solidità di tipo contrattuale, di tipo salariale, eccetera. Quindi ecco, mi chiedo se non avvertite anche voi, soprattutto tu che lavori per, insomma, all'interno della CGIL, lo stesso pessimismo che io avverto e che mi porta sicuramente a dire ok, bisognerebbe fare delle battaglie, ma che al contempo mi porta a dire la mia battaglia è assolutamente minoritaria e non riesco in questo momento a vedere, diciamo così, una strada differente da questa mia battaglia assolutamente minoritaria. Il fatto che per soddisfare il bisogno abitativo dobbiamo avere la casa di proprietà non è che, diciamo, c'è scritto nel nostro DNA. No, sì, certo. No, cioè, sto dicendo che è una costruzione politica e quindi politicamente, no, in qualche modo ci si può provare quantomeno a lavorare. Ci arrivo perché in qualche modo il tema della casa, cioè prima si facevano i palazzi popolari, no? Fino agli anni 40, poi si è capito che mette insieme tutti i lavoratori e lavoratrici, forse non era una buona idea, perché magari poi parlavano, solidarizzavano. No, ma proviamo a fare un'altra cosa, proviamo a costruire sta cavolo di classe media, che è un progetto tra l'altro americano degli anni 20, cioè senza una cosa, cioè come si diceva, dobbiamo costruire una classe dei lavoratori non proprietari, dei lavoratori che però si sentono in qualche modo superiori agli altri per limitare il conflitto, eccetera. Ci sono arrivati in Italia negli anni 60-70, se voi guardate il numero di persone che abita in case di proprietà, cresce dagli anni 50 fino agli anni 70, e poi a un certo punto rimane un po' lì, finisce la GESCAL, finiscono tutti quanti i mutui agevolati dell'IMI, cioè è una scelta politica. Certo, sì. Io faccio un sacco di fatica con mia madre, tutte volte mi dice perché ti compri la carica, ma perché? Cioè, nel senso che non do valore a quella cosa lì. Però io, cioè, quella cosa lì, secondo me, come politicamente è stata costruita, politicamente cominciamo a vedere, secondo me, anche gli strumenti per poterla un po' decostruire. Faccio un esempio: il fatto che la casa di proprietà è un qualcosa che ti impoverisce se non c'hai un certo livello di reddito. Perché? Perché basta un'alluvione qualsiasi e quello che era, no, la tua riserva per i tempi brutti diventa macerie, anzi diventa che domando che faccio, come faccio, non c'ho manco i soldi. Tu hai detto in questo CGL che, cioè, se vedo qualcosa di meglio... Allora... No, non avevo preso per meglio, anzi. No, cioè se sono più o meno pessimista, allora di quanto lo sei tu, che invece per un po' te la cerchi, cioè nel senso, perché i commenti di ETV io li leggo eppure però dico, è una roba locale, lo provo a conoscere, ma sì, io sì. Ho detto che lei è no, c'è qualcosa di è chiaramente meglio di così, nel senso che io effettivamente, cioè, se penso al panorama medio, diciamo, con cui ho a che fare quella struttura lì, è chiaramente migliore di quello che c'è su FTP. Sono persone, la maggior parte, cioè se penso soprattutto al sindacato pensionati, cioè che hanno ben chiaro quel tipo di responsabilità lì, no? Del dire io sono a casa, ci devo sistemare i miei figli, cioè c'ho paura che appunto che sono molto più bravi e molto più brava la controparte a costruire la narrazione del vogliamo andare a toccare no, la tua fatica, eccetera. Ho quella paura lì, perché effettivamente se tu senti il dibattito, cioè se sentiamo il dibattito che c'è in questi anni, tu prima parte dicevi cioè non c'è dibattito, nel senso cioè se c'è un governo che dà l'agenda mediatica e tutti vanno dietro su cose che non frega niente a nessuno, tra l'altro, però non c'è mai una proposta, anche cioè noi abbiamo fatto la manifestazione sabato scorso su due parole chiave, che era no riarmo e tassare i ricchi, con tutti i dati facendo vedere che la legge di bilancio nuova dà 4 euro in più se guadagni fino, cioè più di 30.000 euro, 400 in più se ne guadagni 50.000, a chi sta sotto non dà niente, eppure cioè, non buchi, cioè non riesce ad arrivare. E quindi cioè, secondo me il che fare parte un po' forse da come comunichiamo, da quanto insistiamo, non lo so, io non c'ho la risposta. Io sì, c'ho la fortuna di campare con persone molto più attente a certe dinamiche che mi fanno pensare che sia possibile qualcosa. Però di fatto è una bolla un po' più grande, perché poi alla fine vinciamo noi. Però no, aspetta, un momento di ottimismo però lo posso dare, perché il referendum, allora, persi, vabbè, ok. Però la popolazione di 35 anni, se avessero votato soltanto loro, avremmo vinto. Se avessero votato soltanto loro. Che avessero votato, però. Vabbè, no, però è un elemento. Però nel senso che... aspetta che muore lei. Ma sempre, ma anche i giovani. Però no, nel senso che comunque non è che cioè che siamo nel deserto, che TV sia probabilmente appunto manco lo spaccato che ho io, però insomma un po' di un po' c'è tipo sottilezza di base, se no non lo so. Se non lavoressi per CGL. No, allora volevo magari fare una, ci sono altre domande? Una facciamo Daniel. Tanto grazie, una brevissima domanda, nel senso che è basata proprio sul come si trasforma in un qualche modo anche il lavoro, nel senso che se andiamo a vedere proprio i dati di questa regione, ci dicono come in un qualche modo gli under 15 siano inferiori al 12%, quindi siamo all'11,8, una cosa di questo, gli over 64 siano appena sotto il 25%. Quindi più 0,3 c'è, perché c'è un'immigrazione positiva e dalle altre regioni e ovviamente dal resto del mondo, per nostra fortuna, perché ancora in un qualche modo riusciamo a essere un territorio attrattivo. Questo però vuol dire anche che dobbiamo probabilmente anche anticipare certe politiche di accoglienza e modificare le nostre modalità per poterlo favorire, per poter rendere sostenibile questo sistema che non può esserlo diversamente. No, lascio rispondere a te perché non ho capito bene. Però in realtà mi lanciai là perché mentre parlavi del appunto chi siamo, eccetera, cioè, è vero che in Italia abbiamo l'ossessione della prima casa, ma di fatto è un BTP a lungo termine, no? Stato, che però appunto in un territorio come questo arriva l'alluvione, cibo. Perdere un po' in una volta. Allo stesso tempo, però, secondo me anche là, come facciamo? Non lo so, però ci sono un po' di cose di leve che abbiamo visto muoversi. Noi abbiamo una grande seconda generazione, e questa non è gente che è abituata alla casa di proprietà, che però il diritto alla casa lo sente. Come la mettiamo? Secondo vero problema, per cui non essere ottimisti, e sono persone molto radicali. Ma sono radicali non perché hanno una costruzione politica, allora là c'è la formazione politica, la cultura politica, perché hanno una rabbia che non sanno dove buttare. Ora, la rabbia, quando davanti non hai nemico, davanti a un nemico, si può indirizzare. Ragazzi, lo fanno tutti, ma davvero non ci riusciamo. No, ma io non lo dico per esterofilia, ma è proprio che tante volte noi ci mettiamo là anche un po' troppo, allora dobbiamo discutere, perché quello se lo mettiamo così non viene bene. Cioè, il mio candidato sindaco di New York, no? Socialista, lui su New York, la questione abitativa, dice una frase, non dico di copiarlo, però per dire, dice Sì, New York è la città più bella del mondo, lo dicono tutti. Ma che ci serve se poi non possiamo permettercela? Punto. La gente dice, ma sì, cazzo. Cioè, capito? Delle cazzate molto americane. Però appunto a un giovane dice, ma scusa, certo che è figo vivere a Bologna, no? Cioè, voi ci sono trasferiti magari tantissimi anni fa, cioè, ma se non me la posso più permettere. Questo succede a Milano, cioè gente di 50 anni, ben strutturata professionalmente, è stata espulsa dai quartieri. Ora, pensate appunto alle seconde generazioni cresciute qui già in ambienti periferici che si trovano, come dire, le barriere all'ingresso della città, se non per fare... Il problema è che siamo pochi, che sono pochi. Questo è un altro tema. Ora, anche là la questione è la pietas, giochi sulla, su quella che è la cultura italiana, dove abbiamo una rendita ereditaria molto elevata, perché il problema in realtà non sono i vecchi, cioè lo sono stati fino adesso, la generazione dei nostri genitori e dei nostri nonni, ma domani mattina sono i nostri coetanei, perché siccome il tasso di natalità è già sceso sulla mia generazione, che sono i metà anni 80, la ricchezza si concentrerà sempre di più. E io dico, ma io non ho bisogno di lottare per niente, siamo di meno, io ho di più in termini, come dire, di cosa mi arriva, perché non lo devo dividere con fratelli, sorelle e cugine, e quindi questa è una situazione polarizzante. Dopodiché ci si prova però appunto, si fa una rottura, cioè un alto alto contro un basso basso. Cioè non ci sono gli asili nido, non spendete per internalizzarli o per crearli, però spendete per il secondo people mover che serve soltanto ai turisti, per dire. Appunto, il fieristico rispetto a... Ma chi ci va alla fiera? Non so, voi andate spesso alla fiera, no? E quella è proprio una gestione che ci si mette sul budget comunale, si fa la battaglia a chi serve, chi è che ci va a lavorare, perché poi devi produrre delle cose, devi fornire dei beni e servizi per la fiera, e chi invece potrebbe lavorare costantemente, come dire, in modo duraturo e lasciare. Quindi secondo me, quindi, io sono molto pessimista, per carità, io aspetto l'asteroide nella vita, però cioè se siamo qua, cioè, questa pioggia di giovedì sera, cioè o proviamo a uscire proprio, come dire, dalla, ok, l'abbiamo fatto sempre così, abbiamo provato sempre solo queste coalizioni eccetera, no, buttare un attimo la palla dall'altro lato, però avendo, come dire, secondo me il tema dell'elenco molto chiaro. Perché anche là, cioè, beh, sul referendum non spara sulla Croce Rossa, per quanto io penso siano stati fondamentali, abbiamo parlato anche insieme. Dire tassiamo la ricchezza non vuol dire niente, purtroppo. Purtroppo in Italia, che è un paese fatto di piccoli proprietari, piccoli imprenditori, eccetera, se te dici spariamo su Bezos, non lo so. Eppure partiamo da un paese, cioè da una situazione in cui nel nostro paese la ricchezza effettivamente rispetto alla Spagna, alla Germania, non si tassa. Noi non abbiamo tasse sull'eredità. Anzi, quella non tassa sull'eredità diventa regressiva, perché poi è tutto flat, sono tutti diritti amministrativi e poco. Quindi questa roba ci deve far pensare. Secondo me costruire una campagna davvero proprio con i puntini. Quindi, quante case hai? Uno, due. Di quante stanze? Sai quelle cose a diagrammi, no? 5 o 2, allora se ne hai 5 ti sposti di qua e vediamo se sei dal nostro lato o dall'altro, ma se ne hai 1 e 2 tu non c'entri. Non è difficile, cioè, la gente, come dire, la binomiale ancora la capisce, certo, il rapporto tra frazioni è un po' più difficile, forse ne dovremmo un po' discutere, però ci sono cose che anche appunto, se vogliamo dire, la bolla Instagram di quello che è stato il 3 ottobre il suo paese, si creano, perché poi sono bolle Instagram, il problema è andare un attimino oltre quella roba, e per fare quella roba ti servono i dati, ti serve capire i bilanci, ti serve... Come dire, alle prossime elezioni anticipare dove stanno andando e chi prova a mettere le mani sulle città, perché dire apriamo un data center a Bologna, cioè è una roba che si sa forse da tantissimi anni, ma non se ne discute. Su quella roba ci vogliono le campagne, perché poi campagne piccole di prossimità in realtà mobilitano, fanno riconoscere la gente, e poi mentre sei là dici, ah, ma sei sulla casa e via discorrendo. Io sono molto pessimista, per carità, però qualcosa si può tentare, se no, ragazzi, in modo totale... No. Non ci rivediamo più. No, anche la questione della cedolare, se è caso di affitti brevi, eccetera, eccetera, rispetto poi al piccolo proprietario, e la prima casa che ho messo, con quella ci guadagno, come dicevano gli attivisti di Ocio, di Venezia, cioè se riconducessimo tutto alla fiscalità generale e applicassimo a quella l'aliquota che si applica sul reddito, piuttosto che scorporare quella roba lì e farla diventare rendita pura e basta, o fosse una flat tax, no? Sarebbe già. E invece, come al solito, poi la discussione, no? Si concentra su un problema che è un problema sbagliato. Altre domande? Francesco, dite te. No, io avevo un'osservazione, non voglio magari aprire, fare una domanda forse più per te. No, siccome, vabbè, è un po' quello che dico sempre io a questi incontri, no? Il discorso di pensare a questi fenomeni come fenomeni globali. Cioè, noi siamo qui parlando di Bologna, però insomma, interrogandoci su quello che succede qua, parliamo in realtà di quello che succede intorno a noi in tutto il mondo. Mi veniva in mente prima, sentendo parlare dei salari, la classifica OCSE famosa sulla perdita di potere d'acquisto, no? Dove l'Italia è praticamente proprio in una posizione forse la peggiore di tutti i paesi. E quindi mi domando, ma all'estero, dove magari appunto il salario non si è impoverito così tanto, succedono le stesse cose, succedono in misura minore in termini di quello che succede nelle trasformazioni delle città, quindi il fatto che le città diventano respingenti, che vengono mandate via determinate classi, il fatto magari di avere dei salari che ancora riescono un pochettino a pompare di più, ti permettono di contrastare o di dire vabbè, la città si turistifica, però io tutto sommato ancora mi posso permettere il nido, ancora guardavo lei perché... intelligente, anche perché poi non lo sapevo, ma insomma è vissuto all'estero, quindi... No, è una domanda interessante. Vabbè, la risposta è anche un grande dipende. Sì, no. No, facciamo in caso, io ho vissuto sia in Francia sia in Spagna, quindi giusto per contestualizzare di cosa parlo, che sono i due mercati del lavoro anche che un po' conosco, le cui riforme ho seguito. Ovviamente sono due paesi molto diversi dall'Italia, sia diciamo per il pre, da dove, come sono, ci sono arrivati alla crisi del 2008 e come poi sono usciti da quella crisi e come hanno affrontato, come dire, l'ingresso nella crisi Covid e il post-Covid, perché poi alla fine pure 20 anni che stiamo in crisi, quindi insomma il governo di queste crisi ha prodotto delle differenze. Parto da quello che sembra essere il miracolo spagnolo di questi anni, che in realtà non è un grandissimo miracolo, se lo guardiamo oggettivamente, dal punto di vista assoluto, se lo guardiamo in comparazione con l'Italia, questi venivano, abbiamo dei salari molto più bassi d'Italia, un'industrializzazione molto più scarsa d'Italia. Se andiamo a guardare il pro capite oggi, le distribuzioni, anche il tipo di specializzazione produttiva, cioè cosa produciamo, insomma, non c'è tutta questa grande differenza, ce ne sono ancora alcune. Però la Spagna, è vero che già dal periodo appunto franchista, ha vissuto un pezzo, se volete, di produzione, è sempre stato il turismo. Se andiamo a prendere la costa spagnola, è tutta massificata, e ormai hanno aggredito tutto il Portogallo. Siviglia, la città dove vivevo io, per esempio, è sempre stata una città poverissima, l'Andalusia è una delle regioni più povere, e dopo appunto la crisi del 2008, durante la ripresa, Siviglia diventa grande turismo, così come Barcellona, non soltanto Siviglia. Eppure però l'accordo di governo del 2018, che fu quello che permise a Sanchez sostanzialmente di rimanere al governo, trainato ormai e portato a sinistra, è stato quello con Pablo Iglesias, 18 ottobre del 2018, loro siglano l'accordo di governo su tre punti: riforma del lavoro che riporta indietro, cioè che abolisce tutta la riforma Rajoy del 2012, che è stata quella della liberalizzazione, pensate a quello che è stato da noi, da Sacconi 2011 al Jobs Act, per intenderci, torni indietro, in più questa grande cosa del salario minimo. Effettivamente in Spagna tra il 2018 e il 2019, quindi entrano nel Covid, comunque uno scatto salariale dove il salario minimo aumenta del 22%. Passano, erano, non mi ricordo se 800 e rotti, a 950, 1100 sulle 12 mensilità. Certo che c'è una differenza tra chi ha 600 euro e chi, come dire, anche scioperare quando hai 1100 piuttosto che quando ne hai 700 fa la differenza, ovviamente. È vero che però la questione abitativa a Madrid, a Barcellona, come a Granada, come a Siviglia, insomma, in realtà vive una trasformazione un po' diversa proprio dal punto di vista di attrazione ad investimenti diretti esteri, rimane, però si lotta su quella cosa, cioè il diritto alla casa, proprio perché non sono tutti proprietari, però la Spagna comunque c'è tanti proprietari, ancora il latifondo che se lo rivendicano in un certo senso, esiste. Noi abbiamo smesso di pensare che il diritto alla casa sia un diritto vero e proprio. Cioè la differenza tra due, ma qui continuo a parlare delle tasse di questi asili nido, che guadagnano la stessa cosa, lavorano al pomeriggio, esternalizzati da una società, una ha una casa di proprietà e una no, gli è cambiata la vita. Ok? Ovviamente se hai scatti salariali, appunto, su quei contratti non riesci con la contrattazione, i rapporti non sono favorevoli, a migliorare le condizioni, sempre bene. L'altra cosa che hanno fatto, ovviamente alcune erano non raggirabili, altre sì, per dire, durante il Covid in Spagna hanno fatto passare, sempre grazie a Podemos, la ley vivienda, che era la legge sull'impossibilità per i proprietari di aumentare gli affitti al rinnovo del contratto del più del 2%. E qui, insomma, poi in realtà ti potevano sottrarre la casa dicendo ovviamente motivi personali, mi ci trasferisco, io prendo la residenza e ti tolgo l'affitto. Però comunque non è così facile. L'altra cosa che hanno fatto sugli affitti è spostare le spese di agenzia dall'inquilino al proprietario. L'altra cosa che hanno fatto per proteggere il potere d'acquisto, qua scoppia questa inflazione che davvero, io sono tornata in Italia, non so come campiamo, ma la spesa per me è lì, come devo andare a comprare la frutta, oddio. Cioè, io sono così, dico, e voglio dire, ho uno stipendio decente, sono un ricercatore universitario, insomma. In Spagna, nel 2021, fine 2020, hanno fatto il blocco dei prezzi, quello dell'energia, quando c'è stato, no, prima hanno bloccato il paniere di consumo, quindi i beni di prima necessità, il pane, i pannolini, il latte, le banane, l'insalata, la pasta, il riso, le patate, bloccati i prezzi, cioè. La corsa di inflazione che è tutta da profitti in questo periodo non si è potuta fare, cioè, quindi hanno avuto un minimo, una visione un po' più di ampio respiro per proteggere il potere d'acquisto, che quella roba lì indirettamente da parte dello Stato ti dà quel respiro e dire una giornata di sciopero in più o una discussione come questa in più la posso fare, no? Perché non rincorro l'straordinario per alcuni motivi, poi ovviamente non è rosa e fiori. Eppure però i dati sull'occupazione e la stabilità dell'occupazione, per dire, hanno davvero ricapovolto il mercato del lavoro in termini di contrattualistica, hanno abolito il contratto opera e servizio, che era quello destinato proprio agli appalti, pagava molto meno, eccetera. Non ci sono, hanno aumentato il salario minimo, non ci sono grandi licenziamenti. Anzi, ma perché banalmente, anche l'altro ieri con l'università, la questione salariale, è bassa la produttività, allora i salari sono bassi. No, non sta scritto da nessuna parte la teoria economica che questa è una relazione che va dalla produttività ai salari. Anzi, ci sono tante teorie economiche che ti dicono bassi salari corrisponde bassa produttività. E questa è una roba proprio di indirizzo di come vedi il mondo. L'altro paese, la Francia, scusate, sono andata lunga, tagliarmela ancora più con l'accetta diventa proprio complicato. In Francia invece è un modello un po' diverso. La Francia è un paese molto elitista, è piramidale. In Francia non ti chiedono che lavoro fai, ti chiedono soltanto che scuole fai all'università. Se sei una delle 5, la Grande École, la Master, Polytechnique, la École d'Ingénieur, sei di un tipo. Se sei il resto delle, comunque laureato, anche alla Sorbonne, rispetto a me che esco da Sciences Po, cioè quelli Sciences Po, Grande École, e là, cioè, questo è il sistema francese, però la Francia ha sempre detto la tenuta sociale si fa sulla normalizzazione del conflitto. Quindi la casa, anche se là adesso ci sono tantissimi problemi, perché niente, si sta in una città come Parigi, e tutta come l'immigrazione di ritorno e quant'altro, ma il diritto alla casa è sacrosanto. Quindi vengono costruiti, vengono riabilitati, vengono ristrutturati gli HLM, che sono le grandi, sì, sono le case popolari sostanzialmente. Ti vengono attribuite a te studente, a te famiglia, famiglia numerosa, esiste un welfare per le famiglie, cioè, non è normale che si torni, cioè, davvero io sono imbarazzata, io ho capito che in Italia non andasse tanto bene, quella posizione dello speeder, dice, ma quanto mi date? Zero. Ma come zero? Ma io sono una figlia. Cioè non esiste, questa cosa in Francia, in Spagna non esiste. In Italia siamo abituati, ma non ci danno niente, e vabbè, in qualche modo faremo. No, non è normale. E questa normalizzazione, anche in Francia non hai tempo finito, nel senso, vi diamo un po' di welfare, però, come dire, questa piramide non si tocca. cioè in Italia siamo un po' più democratici, anche lì siamo un po' più confusionari. Però anche là è vero che la Francia vive, come dire, un'instabilità politica molto forte, un po' di picconate li hanno prese, però ci sono delle cose, nel corso delle elezioni in Francia loro non riescono a fare un governo perché non possono far passare quella riforma delle pensioni. Sembrano cose banali, ma non lo sono. La discussione sulla tassa Zuckman, che è appunto la tassa sui milionari in Francia, è una discussione che si ha nei bar tutti i giorni, ma non è che in Francia come in Italia non ci siano le tasse sulla fortuna. In Francia esiste appunto questa tassa solidale sulla fortuna, per cui se hai oltre una soglia, che so, penso sia un milione di euro, non so quanto, ma quanti voi hanno un milione di euro? No, guarda, dire dove fai la coalizione, sta cosa di... Cioè io farei questo, proprio il post Instagram, un milione di euro, sì o no? No, di qua e ci contiamo, quindi stiamo sotto e quanti sopra, proprio visivamente. E là però esiste una tassa del genere, c'è sempre stata. Peraltro la gente non si vergogna, non si preoccupa di pagare le tasse in Francia. Non esiste la flat tax. Ragazzi, la flat tax a 100.000 euro è un abominio. Ma è un abominio perché basterebbe dire alla gente, ma scusa, lavoriamo uguali, no? Poi tu vuoi la sanità, le strade, gli asili, i parco giochi, il cinema, l'aria pulita, non lo so, la transizione energetica e paghi stedulire? Almeno mettiti con noi sulla battaglia sui grandi patrimoni, almeno. Cioè, secondo me è davvero una questione di alfabetizzazione, come dire, civile. Poi, queste sono un po' le differenze. Poi sì, in Francia fanno sciopero generale, dura 3 mesi, qua mezza giornata. Il modo di stare al mondo, loro ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo mai avuto. Io penso sempre che le cose possono anche nascere.